Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova, a cura di Andrea Canton. Domenica è sempre domenica, cantava tanti anni fa Renato Raschel. Ma domenica, per molti lavoratori, rischia di non essere più domenica, cioè quel giorno dedicato alla famiglia e al riposo a cui tutti erano abituati. Le liberalizzazioni contenute nel decreto Salva Italia del governo Monti hanno reso possibile agli esercizi commerciali di rimanere aperti anche la domenica. La scelta ha provocato la dura reazione degli enti locali, che vedono così svanire decenni di regolamenti sul commercio, ma ancor più dura, ovviamente, è stata la reazione dei sindacati. Sono ormai quasi una tradizione nel Veneto e a Padova in particolare gli scioperi delle commesse, preoccupate di dover lavorare anche di domenica, magari senza nemmeno vedersi corrisposto il supplemento tradizionale per i festivi. Esistono figure professionali che non possono non lavorare nei giorni festivi, penso per esempio alle forze dell'ordine e ai medici del pronto soccorso. Però è giusto che supermercati, centri commerciali e negozi d'abbigliamento rimangano aperti ai clienti anche di domenica? Ne parleremo fra pochissimo, ma prima ascoltiamo cosa ci dice la dottrina sociale della Chiesa a riguardo. Dal compendio della dottrina sociale della Chiesa. Il riposo festivo è un diritto. Dio cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro. Anche gli uomini, creati a sua immagine, devono godere di sufficiente riposo e tempo libero, che permetta loro di curare la vita familiare, culturale, sociale e religiosa. A ciò contribuisce l'istituzione del giorno del Signore. Necessità familiari o esigenze di utilità sociale possono legittimamente esentare dal riposo domenicale, ma non devono creare abitudini pregiudizievoli per la religione, la vita di famiglia e la salute. La domenica è un giorno da santificare con un'operosa carità, riservando attenzioni alla famiglia e ai parenti, come anche ai malati, agli infermi, agli anziani. Né si devono dimenticare quei fratelli che hanno i medesimi bisogni e i medesimi diritti e non possono riposarsi a causa della povertà e della miseria. Le autorità pubbliche hanno il dovere di vigilare affinché ai cittadini non si è sottratto, per motivi di produttività economica, un tempo destinato al riposo e al culto divino. I datori di lavoro hanno un obbligo analogo nei confronti dei loro dipendenti. Abbiamo in collegamento telefonico Don Marco Cagol, direttore dell'Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova. Grazie per essere con noi ancora una volta. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Questi stralci del compendio della dottrina sociale della Chiesa riassumono bene, secondo lei, il precetto domenicale? Ma direi certamente di sì, anzitutto perché fanno riferimento un po' all'origine, diciamo così, ecco, spirituale, teologica di questo precetto, di questa idea del riposo festivo, ma poi anche perché mettono in luce quella dimensione, diciamo così, legata alla natura delle relazioni che il riposo festivo suggeriscono, cioè una natura di gratuità, di carità, di attenzione ai poveri, ecco, che ciò che caratterizza e dovrebbe caratterizzare proprio la domenica cristiana, ecco, il riposo festivo e anche, diciamo così, l'essere liberi dalle preoccupazioni del lavoro, del mercato e dei bisogni primari. Eppure, scusi la franchezza della domanda, anche se non sembrerebbe, anch'io ho viaggiato in giro per l'Europa in lungo e in largo, e sia in Spagna che in Germania, ma soprattutto in Germania, sono rimasto molto sorpreso nel vedere dei negozi, in particolare i negozi di alimentari, aperti non solo la domenica, ma anche di notte. Per esempio, era possibile di notte andare a prelevare delle lattine di Coca-Cola o delle birre. Perché questo non può avvenire anche in Italia? Perché non possiamo avere un alimentari a Padova o a Treviso aperto alle 4 di notte? Ma la mia domanda, io ribalto la domanda e dico, cioè il fatto di avere degli esercizi commerciali aperti 24 ore su 24, ma soprattutto 7 giorni su 7, è un segno di progresso? E cosa intendiamo per progresso? I nostri anziani ci ricordano che una volta certo i negozi erano aperti di domenica e che fu una conquista arrivare appunto a considerare la domenica come giorno di riposo anche per chi faceva, diciamo così, attività di commercio. Dopo è chiaro, magari nelle grandi città turistiche o nelle grandi agglomerati capita anche di vedere questo. Non sono proprio sicuro che questo capiti esattamente in tutti i posti del mondo, in tutti i villaggi, in tutti i paesi, ecco, probabilmente comunque c'è un ritmo anche naturale della vita lì dove la gente vive normalmente, insomma. Però ecco, la domanda di fondo è: che cosa è progresso? E mi fermo qui. Torniamo in Italia e cerchiamo di interrogarci solamente del nostro paese per il momento. E che effetti avrà, secondo lei, il decreto liberalizzazione sugli orari di apertura dei negozi? Ma sicuramente per qualcuno sarà occasione di comodità, nel senso che come si diceva prima, certamente trovare i negozi sempre aperti può essere utile quando si ha bisogno, quando si lavora, eccetera. Quindi probabilmente sicuramente è un aspetto anche che viene gradito da molti consumatori, però ci saranno sicuramente degli effetti. Il primo è quello di comprimere in qualche modo il diritto a un riposo festivo e familiare da parte delle persone, perché è chiaro che magari chi lavora di domenica può avere anche il riposo durante la settimana, però ecco, deve sempre vivere uno slalom anche familiare per trovare dei momenti in cui tutta la famiglia può essere radunata. Certo, in un modello di società dove la famiglia non è considerata forse più qualcosa che sta al centro, questo può essere anche funzionale. Se uno è single, se uno vive da solo, è chiaro che magari questo rileva poco. L'altro effetto è che solamente le grandi agglomerati, diciamo così, di produttori o comunque di commercianti potranno sostenere questo ritmo, perché sono quelli che possono permettersi anche il turnover dei dipendenti avendone tanti. Questo porterà probabilmente di conseguenza anche la moria dei piccoli negozi, quelli di vicinato, quelli che sono a conduzione familiare. Questo nelle nostre città, che non sono delle metropoli ma che sono delle città così di livello anche provinciale, così probabilmente questo produrrà anche un po' di impoverimento del tessuto urbano, del tessuto relazionale, del tessuto sociale. Ecco, quindi questo direi che sicuramente sarà un effetto. Ecco, poi qualcuno dice che questo avrà l'effetto anche di aumentare i posti di lavoro. Ecco, io qui starei a vedere, perché la settimana scorsa sul giornale, qualche settimana fa sul giornale, c'era la dichiarazione appunto di qualche grande catena che farà grandi assunzioni di persone per coprire appunto i turni domenicali. Bisogna vedere se queste nuove assunzioni intanto di che natura sono, e già i sindacati, già le associazioni di consumatori e dei commercianti hanno anche messo un po' in discussione la natura di queste assunzioni. Si è visto anche che qualche catena assume gli studenti così al sabato e la domenica, e poi se questo effettivamente non sarà semplicemente un trasferimento di posti di lavoro dalle realtà più piccole alle realtà più grandi. Quindi bisognerà vedere proprio il bilancio, ecco, effettivo, ecco, sia sulla qualità del lavoro che verrà prodotto, dei posti di lavoro che verranno prodotti, sia anche dell'effettivo bilancio numerico. Ci fermiamo qualche istante e torniamo fra pochissimo. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Padova. Bentornati carissimi ascoltatori, siamo in collegamento telefonico con Don Marco Cagol, direttore dell'Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova. Stiamo parlando di aperture domenicali. Perché il governo Monti ha insistito così tanto su questa proposta di liberalizzazione anche degli orari? se ne sentiva la necessità? Ma come dicevo prima, forse c'è la speranza, ecco, da parte del governo che questo dia un volano anche all'economia e al comparto così del commercio e dei consumi. Però ecco, già prima ho evidenziato alcune perplessità, ecco, soprattutto inerenti alla vita familiare e poi alla effettiva creazione di posti di lavoro, ecco. Ma c'è una questione anche forse più importante, ecco, da parte dal punto di vista anche della Chiesa, della dottrina sociale. Infatti finora abbiamo parlato di opposizione da parte dei sindacati, delle associazioni di categoria, degli enti locali, ma forse, ecco, le parole più dure nei confronti del governo Monti in questi mesi da parte di esponenti della Chiesa è stata proprio su questo tema. Qual è il nocciolo della questione per la Chiesa? Ma non è che ci siano state parole dure, cioè si è messo in evidenza che questo può avere dei limiti, ecco, molto forti. Il nocciolo della questione è una visione di uomo e di società. Cioè, come Chiesa, come cristiani, dobbiamo per forza rassegnarci all'idea che la società funziona nella misura in cui il mercato, lo scambio di merci, occupa tutto lo spazio possibile e immaginabile della vita sociale? Oppure possiamo ancora pensare ad una società e ad una persona umana dove esistano degli spazi non solo personali e non solo privati, di gratuità, di tempo libero dalle occupazioni commerciali, economiche, di mercato? Questa è la questione fondamentale. Certo, c'è anche l'aspetto della libertà religiosa, della possibilità comunitaria di celebrare la festa domenicale, cioè la domenica in senso anche religioso, quindi c'è una questione, il Vescovo di Padova dice sempre, di libertà religiosa, e dice il compendio molto bene, le autorità pubbliche hanno il dovere di vigilare affinché i cittadini non sia sottratto per motivi di produttività economica un tempo destinato al riposo e al culto divino. Ecco, quindi c'è sicuramente anche questo aspetto, ma è proprio una visione di, cioè da questo deriva una visione di uomo, cioè ci deve essere un tempo che è possibile dedicare gratuitamente a Dio e agli altri. Quante persone sarebbero meno sole anche nei giorni di festa se le persone invece di preoccuparsi degli acquisti avessero il tempo, non so, di andarle a trovare, di dedicare loro del tempo proprio gratuitamente? E poi comunque resta sempre tutto l'ambito delle relazioni familiari e comunitarie. Questo è un po' il nocciolo della questione, una visione di uomo e di relazioni sociali. Quindi non solo messa domenicale, ma la comunità che si ritrova e anche le famiglie, io penso per esempio agli oratori patronati. Certamente. Che la domenica si popolano. Certo. E con questo clima disteso, insomma, tutto questo verrebbe un po' a mancare? Certamente sì, ma questo veicola proprio un'idea di società. Eppure le faccio una domanda un po' provocatoria. La stessa Chiesa che ha a cuore la domenica propone sempre più spesso la formula della messa prefestiva, quella del sabato sera o a volte anche del sabato pomeriggio. Sempre più affollate, insomma, queste messe. Tanta gente quindi vive il precetto domenicale il sabato e non la domenica. Fermo restando che dal punto di vista liturgico e canonico la messa è valida, questo non rischia di avere come effetto collaterale un po' la perdita della sacralità della domenica se vado a messa il sabato pomeriggio? Ma un po' certamente sì, indubbiamente sì. Diciamo che però io direi che questo dipende soprattutto dall'educazione che hanno i cristiani a considerare la messa non come un obbligo così da collocare il prima possibile nel posto più innocuo possibile, ma come un momento di festa, cioè un momento che uno vive volentieri. Ecco. Io credo che contraendosi anche un po' il numero di coloro che lo fanno per obbligo, invece restando soprattutto chi lo sceglie, ecco, è anche più facile che la gente scelga, le persone scelgano di partecipare alla domenica, perché comunque quello diventa parte integrante di una domenica vissuta nella festa, con la famiglia e con il resto della comunità. La scelta della Chiesa di dare l'opportunità anche al sabato sera di partecipare alla messa domenicale è stata per favorire, insomma, certamente anche coloro che hanno delle difficoltà la domenica, o di tipo familiare o anche di tipo lavorativo, perché ci sono comunque dei lavori che non possono essere sospesi alla domenica, o perché sono servizi generali o quant'altro, insomma, ecco. Quindi diciamo è un'opportunità, però credo che nell'educazione dei fedeli poi si può cogliere invece tutto il valore di vivere una domenica comprensiva anche della partecipazione in comunità all'Eucarestia. Grazie Don Marco per essere stato con noi anche questa volta. Grazie a voi e buona Pasqua a tutti. Grazie. Tra poche settimane verrà beatificato a Roma Giuseppe Toniolo, grande economista e figura di riferimento per la dottrina sociale della Chiesa. L'Ufficio per la Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova organizza un pellegrinaggio a Pisa e a Roma da sabato 28 a lunedì 30 aprile. Per informazioni e iscrizioni potete chiamare l'Ufficio della Pastorale Sociale del Lavoro della Diocesi di Padova il pomeriggio dalle 15 alle 18.30 a questo numero 049-877-1705. Ripeto, 049-877-1705. Ci troveremo nuovamente martedì prossimo, sempre alle 18.25, sulle frequenze di Blu Radio Veneto. Potete riascoltarci grazie al podcast sul sito di Blu Radio Veneto, o per contattarci potete mandarci una mail a redazione@bluradioveneto.it. Da Andrea Cantone è tutto, l'appuntamento con noi a martedì prossimo. Nel frattempo, carissimi ascoltatori, vi auguro di cuore una buona Settimana Santa e una felicissima Pasqua di Resurrezione. Il bene di tutti, parliamone. Rubrica settimanale a cura della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Padova.